Non

cuore troppo scaltra, più di me costretta, più di me costretta, più di me costretta. Sì, sì. Cresce beltà, l'amor nascente, a far l'indifferente, si seguiti così, finché non viene, ella spiegarsi. E Morino, e me. Perché partire, perché morte soldato, hai risoluto? Perché, per chi ha voluto secondo il mezzo il mio destino io potea migliorar la tua persona la tua vita ci è cara io ricomprai il fatale contratto da del cuore voi stessa è naturale 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。